la farfalla che piomba giù dal cielo come bomba che balla e gira il mondo cambiando pelle, confonde il suo nemico e resta sogno ribelle. Lo puoi ignorare o cancellare, servirà soltanto questo a farlo lottare. Io giro il mondo, seguo le stelle, graffio la ragione, nasce il sogno ribelle. Gira gli occhi guardando il sole, per ogni cosa troverai le parole. Super protetto e inviolato, la tua vita non ha significato. Cambia il via, usa l'energia, difendi i tuoi diritti, per primo quelli scritti. E cerca di lottare come se fossi amare, quello è il dinosauro, devi farlo alzare. No! Cambiare colore, cambiare uomo, cambiare pelle. Giorno e notte cresce il nostro sogno ribelle. Gira gli occhi guardando il sole, per ogni cosa troverai le parole. Super protetto e inviolato, la tua vita non ha significato. Cambia l'artiglieria, usa l'energia, protetti i tuoi diritti, per primo quelli scritti. Cerca di lottare come se fossi amare, quello è il dinosauro che ti fanno alzare. Avvelenando il nostro viaggio, noi ci inventiamo un altro sogno ribelle. Sta lievitando, lievitando, lievitando. Sogno ribelle, cambia la pelle. Sogno ribelle, cambia la pelle. Su, su, sogno ribelle, wow. Su, su, sogno ribelle, wow. Cambia la pelle. Sono ribelle. Cambia la pelle.